Veste Scarlatte di Jack London, terza puntata. Dovete capire che il mondo microorganico rimaneva alla fin fine un mistero. Si sapeva che questo mondo esisteva e che da esso, di quando in quando, arrivavano eserciti di nuovi germi a sterminare la gente. E questo era tutto ciò che si conosceva in proposito. Nel mondo microorganico invisibile, a quanto se ne sapeva, potevano anche esserci tante specie diverse di germi quanti sono i granelli di sabbia su questa spiaggia. E inoltre era possibile che in quello stesso mondo invisibile si sviluppassero nuove specie di germi. Era possibile che la vita avesse origine proprio là, in quella che Soldateschi chiamava la fecondità abissale, servendosi della parola che altri avevano scritto prima di lui. A quel punto Labbro Leporino si alzò con un'espressione di profondo disprezzo sul viso. «Nonno», annunciò, «non ne posso più di tutte le tue chiacchiere incomprensibili. Perché non ci parli della morte rossa? Se non hai intenzione di farlo, dillo e me ne torno al campo». Il vecchio lo guardò, poi in silenzio si mise a piangere. Le lacrime senili gli scesero sulle guance, la sua espressione afflitta manifestò tutta la fragilità dei suoi 87 anni. «Siedi», suggerì Edwin in tono conciliante. «Il nonno sta raccontando benissimo, fra poco arriverà a parlare del morbo scarlatto, non è vero, nonno? Stava proprio per parlarcene adesso. Siedi dunque, Labbro Leporino, e tu, nonno, continua pure». Capitolo terzo. Con le nocche sporche il vecchio si terse le lacrime, quindi riprese il racconto con una voce tremula e acuta, che in breve, però, mentre si lasciava trasportare dal ritmo stesso della narrazione, divenne più ferma e profonda. Fu nell'estate del 2013 che arrivò il morbo. Io avevo 27 anni e lo rammento bene. I messaggi radio. Labbro Leporino manifestò apertamente la propria irritazione. Allora il vecchio si affrettò a fare ammenda. A quell'epoca parlavamo attraverso l'aria, a migliaia e migliaia di chilometri di distanza. Fu così che giunse la notizia di una strana malattia che era scoppiata a New York. C'erano 17 milioni di persone, allora, che vivevano nella più famosa città d'America. Nessuno si curò della notizia. Fu soltanto un piccolo evento che causò solamente poche vittime. Sembrava, però, che fossero state morti molto rapide e che uno dei primi sintomi della malattia fosse un rossore diffuso su tutto il viso e tutto il corpo. Entro 24 ore arrivò la notizia del primo caso a Chicago e lo stesso giorno fu reso pubblico che a Londra, la città più grande del mondo dopo Chicago, si stava combattendo segretamente il morbo da 2 settimane e si stava censurando i notiziari. Voglio dire, non si permetteva che il resto del mondo sapesse che a Londra c'era la peste. Sembrava una cosa grave, ma noi, in California, come altrove, non ci allarmammo. Eravamo certi che batteriologi avrebbero trovato un modo per annientare il nuovo germe, proprio come avevano sconfitto gli altri germi nel passato. Ma il guaio fu la rapidità sbalorditiva con cui la nuova malattia attaccava gli esseri umani. E inoltre il fatto che uccideva invariabilmente tutti coloro che infettava. Nessuno guariva, mai. Il colera, una vecchia malattia asiatica, poteva capitare di cenare la sera in compagnia di una persona che stava bene, e la mattina dopo, se ci si alzava abbastanza presto, la si vedeva dalla finestra, mentre veniva caricata su un carro che trasportava altre vittime. Però la nuova malattia era ancora più rapida, molto più rapida. Dal momento in cui si manifestavano le prime avvisaglie del morbo, si moriva nel giro di un'ora. Alcuni malati resistevano alcune ore, ma molti perivano entro 10 o 15 minuti dalla comparsa dei primi sintomi. Il cuore cominciava a battere più forte, la temperatura del corpo aumentava. Poi arrivava l'esantema scarlatto, che si diffondeva come un incendio nella foresta, prima sul viso, poi sul resto del corpo. Molte persone non si accorgevano neppure dell'aumento della temperatura e del battito cardiaco. Si rendevano conto di avere la malattia soltanto quando compariva l'esantema scarlatto. Di solito questo fenomeno era accompagnato da convulsioni, che però non duravano a lungo e non erano molto violente. Se si sopravviveva alle convulsioni, si tornava perfettamente tranquilli e subentrava soltanto un intorpidimento, che a partire dai piedi si diffondeva in tutto il corpo, dai calcagni alle gambe ai fianchi. Quando la paralisi arrivava al cuore, era la morte. Non si delirava né si sveniva. La mente restava sempre calma e consapevole fino al momento in cui il cuore, colto dalla paralisi, cessava di battere. Un altro fenomeno strano era la rapidità del processo di decomposizione. Subito dopo la morte, la salma entrava in disfacimento quasi istantaneamente. Questa fu una delle ragioni per cui l'epidemia si diffuse con tanta velocità. Tutti i miliardi di germi che avevano proliferato in ciascun cadavere venivano immediatamente dispersi nell'ambiente. E fu a causa di tutto questo che i batteriologi ebbero così poche opportunità di combattere l'epidemia. Rimasero uccisi nei loro laboratori mentre studiavano i germi del morbo scarlatto. Furono eroici. Man mano che morivano, altri provvedevano a sostituirli. Fu a Londra che il germe venne isolato per la prima volta. La notizia fu diramata ovunque per telegrafo. Il batteriologo che riuscì per la prima volta in questa impresa si chiamava Trask, ma in meno di 30 ore anche lui morì. Poi in tutti i laboratori iniziò la lotta per trovare il modo di distruggere i germi dell'epidemia. Tutti i medicinali fallirono. Dovete sapere che il problema era quello di creare un farmaco o un siero che uccidesse i germi senza uccidere anche il malato. Si tentò con altri germi, ossia si introdussero nel corpo di un malato germi che erano nemici di quelli dell'epidemia. Eppure, nonno, queste cose, questi germi, non si potevano vedere, interruppe l'abbro leporino. E tu blateri, blateri di questi germi come se esistessero, invece non esistono. Tutto quello che non si vede non esiste, è questo il fatto. Combattere cose che non esistono con altre cose che non esistono. Dovevano essere proprio tutti matti a quell'epoca, è per questo che creparono. Beh, ti dico che non intendo proprio credere a tutte queste assurdità. Subito il vecchio cominciò a piangere, mentre Edwin, con ardore, prendeva le sue difese. Stammi a sentire, labbro leporino, tu credi a un sacco di cose che non si vedono. In silenzio, labbro leporino scosse la testa. Credi ai morti che camminano, eppure non hai mai visto un solo morto che cammina. Invece ti dico che li ho visti, è stato l'inverno scorso, quando ero a caccia di lupi con papà. Beh, sputi sempre quando attraversi un corso d'acqua, ribatté Edwin in tono di sfida. È per tenere lontana la sfortuna, si difese l'abbro leporino. E tu credi nella sfortuna? Sicuro. Eppure non l'hai mai vista, la sfortuna, concluse Edwin trionfante. Dunque, la sfortuna è tanto assurda quanto i germi, e tu sei tanto matto quanto il nonno. Credi a quello che non vedi. Continua, nonno. Sopraffatto da questa sconfitta metafisica, l'abbro leporino rimase in silenzio, mentre il vecchio continuava la propria rievocazione. Molto spesso, anche se la presente narrazione non lo riferisce per non essere sovraccarica di dettagli, il racconto del nonno fu interrotto dai ragazzi che discutevano fra loro e che inoltre continuavano a scambiarsi sottovoce spiegazioni e congetture, sforzandosi di seguire il vecchio nel suo mondo sconosciuto e ormai scomparso. Poi il morbo scarlatto arrivò a San Francisco. La prima morte avvenne un lunedì mattina. Arrivati al giovedì, le persone cominciarono a morire come mosche a Oakland e a San Francisco. Morirono ovunque, nei letti, sul lavoro, mentre camminavano per la strada. Fu martedì che assistetti alla prima morte. La signorina Colbran, una mia allieva, era seduta proprio di fronte a me, nella mia aula. Parlando, mi accorsi che il suo volto diventava improvvisamente scarlatto. Interruppi la lezione senza poter fare altro che guardarla, perché tutti noi sapevamo già che l'epidemia era arrivata e ne avevamo terrore. Le ragazze scapparono fuori dall'aula, correndo e strillando. Lo stesso fecero tutti i ragazzi, tranne due. Le convulsioni della signorina Colbran furono molto lievi e durarono meno di un minuto. Uno dei due studenti rimasti andò a prenderle un bicchiere d'acqua. La signorina Colbran ne beve soltanto un sorso prima di gridare. I miei piedi, non li sento più. Dopo un minuto esclamò: Non ho più i piedi, non sento più i miei piedi e le mie ginocchia sono fredde, sento a malapena di averle. Grazie. casa, giaceva sul pavimento con la testa appoggiata su una pila di taccuini e noi non potevamo far nulla. Il freddo e la paralisi si diffusero sino ai fianchi e poi fino al cuore. Allora la signorina Colbran morì. Lo so perché controllai, in 15 minuti d'orologio la giovane studentessa morì, là, nella mia aula. Ed era sana e forte, oltre che molto bella. E fra la comparsa dei primi sintomi della malattia e la morte trascorsero soltanto 15 minuti. Ciò dimostra quanto rapidamente agisce la peste scarlatta. Eppure, in quei pochi minuti in cui rimasi accanto alla ragazza morente, nella mia aula l'allarme si diffuse in tutta l'università e gli studenti a migliaia abbandonarono le aule e i laboratori. Quando uscii per andare a riferire l'accaduto al preside della facoltà, scoprii che l'università era ormai deserta, tranne poche persone che erano state più lente delle altre e che si stavano affrettando ad attraversare il campus per tornare alle loro case. Ne vidi un paio che correvano. Trovai il preside Hogg nell'anticamera del suo ufficio, solo. Il viso appariva molto invecchiato, con una moltitudine di rughe che non avevo mai visto prima. Nel vedermi, si alzò, entrò barcollando nell'ufficio, sbatté la porta e la chiuse a chiave. Era certo che fossi stato contagiato e aveva paura. Attraverso la porta mi gridò di andarmene. Non dimenticherò mai i sentimenti che provai nel percorrere i corridoi silenziosi e nell'attraversare il campus deserto. Non avevo paura, convinto di essere stato contagiato, mi consideravo ormai morto. In realtà non era così. Nondimeno fu invaso da uno scoramento terribile, tutto si era fermato. Era come se fosse arrivata per me la fine del mondo, la fine del mio mondo. Ero nato a un passo dall'università, ero stato predestinato all'insegnamento. Mio padre era stato professore prima di me e suo padre prima di lui. Per un secolo e mezzo quell'università aveva funzionato alla perfezione, regolarmente, come una macchina splendida. Eppure, all'improvviso, in un attimo, si era fermata. Era stato come veder spegnere la fiamma sacra su un'ara tre volte consacrata. Ero sconvolto, una sensazione inesprimibile. Quando arrivai a casa, la governante strillò nel vedermi entrare e fuggì. Quando suonai, scoprii che anche la cameriera era scappata. Indagai. In cucina trovai la cuoca che stava per andarsene, anch'ella strillò, e nella fretta lasciò cadere una valigia piena di effetti personali. Fuggì di corsa dalla casa e attraverso il cortile, sempre strillando. Ancora oggi la sento strillare. Dovete sapere che non ci comportavamo così quando eravamo colpiti dalle malattie normali. Anzi, rimanevamo sempre calmi e facevamo chiamare i medici e le infermiere che sapevano cosa fare. Ma quella malattia era diversa. Colpiva all'improvviso e uccideva con una rapidità straordinaria, inesorabilmente, senza risparmiare nessuno. Quando l'esantema scarlatto compariva sul volto, una persona era consapevole di essere condannata a morte. Non si è mai saputo di nessun caso di guarigione. Così rimasi solo nella mia grande casa. Come ho già detto, a quell'epoca la gente poteva comunicare mediante i cavi o attraverso l'aria stessa. Il telefono squillò e mi trovai a parlare con mio fratello, il quale mi disse che non sarebbe tornato a casa perché aveva paura di essere contagiato. Aggiunse di aver accompagnato le nostre due sorelle a casa del professor Bacon. Mi consigliò di restare dove ero, in attesa di scoprire se fossi stato contagiato oppure no. Accettai tutto questo, restando nella mia casa, e per la prima volta nella mia vita tentai di cucinare, ma il morbo non si manifestò. Per mezzo del telefono continuai a parlare con chiunque volessi e a ricevere notizie. Inoltre, c'erano i giornali, ordinai che mi fossero gettati sulla soglia di casa in modo da poter sapere che cosa stava succedendo nel resto del mondo. New York e Chicago erano nel caos e quello che accadeva là si ripeteva in tutte le grandi città. A New York un poliziotto su tre era morto, anche il capo della polizia era morto e così pure il sindaco. La legge e l'ordine non esistevano più, i cadaveri giacevano insepolti nelle strade. Tutti i treni e tutti i bastimenti che trasportavano cibo e altre cose essenziali avevano cessato di viaggiare e folle di poveri affamati depredavano i negozi e i magazzini. Ovunque impazzivano assassini, ladri e ubriachi. Gli abitanti erano fuggiti dalla città a milioni, dapprima i ricchi con le vetture a motore e dirigibili privati, poi la gran massa della popolazione a piedi, diffondendo così il morbo, soffrendo la fame e depredando le campagne, nonché tutte le città e i villaggi lungo il cammino. L'uomo che inviava queste notizie, l'operatore radio, era solo con il suo strumento in cima a un edificio altissimo. Le persone rimaste in città, che lui stimava in alcune centinaia di migliaia, erano impazzite per il terrore o per l'ubriachezza, e tutto intorno al palazzo della radio infuriavano terribili incendi. Ma quell'uomo rimase al suo posto e divenne un eroe, anche se molto probabilmente era soltanto un oscuro giornalista. Riferì che da 24 ore non arrivavano più aeronavi transatlantiche né messaggi dall'Europa. Nondimeno dichiarò che da Berlino, in Germania, era giunto un messaggio in cui si annunciava che Hofmeier, un batteriologo dell'Istituto Michkenhoff, aveva scoperto un siero in grado di sconfiggere il morbo. Questa è rimasta l'ultima notizia che fino a oggi sia mai arrivata in America dall'Europa. Anche se Hofmeier scoprì davvero il siero, evidentemente era ormai troppo tardi, altrimenti già da molto tempo sarebbe giunto qualcuno dall'Europa ad aiutarci. Possiamo soltanto concludere che ciò che accadde in America avvenne anche in Europa e che, nelle migliori delle ipotesi, alcune decine di persone in tutto il continente fossero sopravvissute al morbo scarlatto. Ancora per un giorno continuarono ad arrivare dispacci da New York, poi anche le notizie cessarono. L'uomo che le aveva inviate, rifugiato nel suo alto edificio, morì anch'egli a causa del morbo, oppure nei grandi incendi scoppiati tutto intorno, che lui stesso aveva descritto. E quello che accadde a New York si ripeté in maniera ancora più violenta in tutte le altre città, San Francisco, Oakland, Berkeley. Il giovedì la gente cominciò a morire con una tale rapidità che non fu possibile seppellire le salme, le quali vennero abbandonate ovunque. Giovedì notte iniziò l'esodo dei superstiti in preda al panico verso la campagna. Immaginate, nipoti miei, schiere di persone che, più fitte dei salmoni che avete visto risalire il fiume Sacramento, si riversano dalle città a milioni e invadono come pazzi la campagna nel vano tentativo di sottrarsi alla morte. Infatti era la stessa gente a diffondere il contagio. Persino le aeronavi dei ricchi in fuga verso i rifugi inaccessibili sulle montagne e nei deserti trasportavano quei germi micidiali. Centinaia di queste aeronavi si diressero alle Hawaii, ma non vi portarono il morbo, bensì scoprirono che esso le aveva precedute. Fummo informati di tutto ciò tramite dispacci, finché pure a San Francisco l'ordine scomparve del tutto e non rimase più nessun operatore a ricevere o a diramare notizie. Fu sbalorditiva, sconvolgente la fine delle comunicazioni con il resto del mondo, proprio come se il mondo avesse cessato di esistere, come se fosse stato cancellato. Da 60 anni questo mondo non esiste più per me. So che esistono luoghi quali New York, l'Europa, l'Asia, l'Africa, eppure da essi non è più giunto un solo messaggio da 60 anni. Con l'avvento del morbo scarlatto la civiltà è crollata definitivamente e irreparabilmente. 10.000 anni di cultura e di storia sono scomparsi in un batter d'occhio, sciolti come la schiuma. Ma stavo raccontando delle aeronavi e dei ricchi che diffusero il morbo e ovunque fuggirono, morirono a loro volta. Non ho mai incontrato nessun superstite di costoro, tranne uno. Mungerson, che divenne uno dei Santa Rosa e sposò la maggiore delle mie figlie. Entrò a far parte della tribù 8 anni dopo l'epidemia. A quell'epoca aveva 19 anni e fu costretto ad attendere 12 anni prima di potersi sposare. Dovete sapere che non esistevano donne non sposate e che alcune delle ragazze più grandi dei Santa Rosa erano già promesse. Così Mungersen fu costretto ad aspettare che la mia Mary compisse i 16 anni. Suo figlio, Gamba Storpia, fu ucciso l'anno scorso da un coguaro. All'epoca del morbo, Mungerson aveva 11 anni. Suo padre, che era uno dei magnati dell'industria, era molto ricco e potente. Tutta la famiglia stava fuggendo a bordo della sua aeronave, la Condor, attraverso le regioni selvagge della Columbia Britannica, che si trova molto a nord di qui. Ma avvenne un incidente, l'aeronave naufragò presso il Monte Shasta. Voi, nipoti miei, avete sentito parlare di questa montagna, che è situata molto a settentrione. Il morbo si manifestò tra i fuggiaschi e il ragazzo di 11 anni fu l'unico sopravvissuto. Per 8 anni visse solo, vagando in un paese disabitato, alla vana ricerca dei suoi simili. E infine, viaggiando verso il meridione, incontrò noi, Santa Rosa. Ma sto anticipando. Quando il grande esodo dalle città della Baia di San Francisco ebbe inizio, e mentre i telefoni funzionavano ancora, parlai con mio fratello. Gli dissi che la fuga dalla città era una follia e che io non avevo alcun sintomo del morbo e la cosa migliore da fare era isolare noi stessi, i nostri parenti e i nostri colleghi e amici in qualche luogo sicuro. Scegliemmo la sede della facoltà di chimica all'università e progettammo di accumulare una scorta di provviste, nonché di impedire con la forza a chiunque altro di imporci la sua presenza, dopo che ci fossimo ritirati nel nostro rifugio. Organizzato tutto ciò, mio fratello mi implorò di restare in casa almeno per altre 24 ore nel caso avessi contratto il morbo. Io acconsentii e lui promise di passare a prendermi il giorno successivo. Discutemmo i dettagli dell'approvvigionamento e della difesa della facoltà di chimica fino a quando il telefono cessò di funzionare, proprio nel bel mezzo della nostra conversazione. Quella sera non vi fu luce elettrica, perciò rimasi solo, al buio, nella mia casa. Dato che non venivano più stampati i giornali, non sapevo nulla di ciò che stava accadendo all'esterno. Sentivo rumori di sommossa e colpi di pistola, e dalle mie finestre potevo vedere nel cielo i bagliori di alcuni incendi in direzione di Oakland. Fu una notte di terrore. Non riuscii a dormire neppure un istante. Un uomo, non so né come né perché, venne ucciso sul marciapiede dinanzi alla mia casa. Udii in rapida successione le detonazioni di una pistola automatica e pochi minuti più tardi il disgraziato, ferito, si trascinò fino alla mia porta, gemendo e implorando aiuto. Armato io stesso di due automatiche, aprii. Alla luce di un fiammifero scoprii che, oltre a essere ferito a morte da alcuni proiettili, era stato colpito dal morbo. Fuggii di nuovo in casa e lo udii gemere e implorare per un'altra mezz'ora. La mattina successiva arrivò mio fratello. Avevo raccolto in una valigia le cose di valore che intendevo portare con me, ma quando lo vidi in volto, capii che non mi avrebbe mai accompagnato alla facoltà di chimica. Era già affetto dal morbo. Allorché fece per stringermi la mano, mi affrettai a indietreggiare. Guardate allo specchio, soggiunsi. Alla vista del colorito scarlatto che diventava sempre più cupo, si afflusciò, snervato, sopra una sedia. Mio Dio, esclamò. Sono contagiato, non avvicinarti. Sono morto ormai. Poi venne colto dalle convulsioni. Morì nel giro di 2 ore. Rimase consapevole fino all'ultimo, lamentando il freddo e la perdita di sensibilità ai piedi, ai polpacci, alle cosce, finché la paralisi giunse al cuore e lo uccise. Era così che uccideva il morbo scarlatto. Presi la valigia e fuggii. Nelle strade la situazione era terribile. Si inciampava nei cadaveri ovunque, alcuni erano ancora agonizzanti. Guardandomi attorno vidi persone che si afflosciavano a terra, colpiti dalla morte scarlatta. A Berkeley erano scoppiati numerosi incendi, mentre anche Oakland e San Francisco apparivano devastate dalle fiamme. Il fumo riempiva il cielo e anche il mezzogiorno sembrava un crepuscolo fosco che talvolta, al mutare del vento, lasciava intravedere vagamente il sole, una sfera rossa e opaca. In verità, nipoti miei, era come se fossero gli ultimi giorni di quella che era la fine del mondo. Si vedevano numerosi veicoli a motore fermi, il che significava che le scorte di carburante erano esaurite. Rammento in particolare una vettura. Un uomo e una donna giacevano morti sui sedili e sul marciapiede accanto c'erano altre 2 donne e un bambino. Si assisteva ovunque a eventi strani e terribili. Le persone camminavano furtive, in silenzio, come spettri. Individui soli o coppie o famiglie, le donne pallide in volto con i bambini in braccio e i padri con i ragazzi per mano, e tutti fuggivano dalla città della morte. Alcuni portavano provviste di cibo, altri coperte e oggetti preziosi, e molti non avevano nulla. Vidi una drogheria, vale a dire un luogo dove si vendeva cibo. Conoscevo bene il proprietario, era calmo ed equilibrato, ma sapeva anche essere stupido e ostinato. Stava difendendo la bottega, benché le vetrine e le porte fossero state sfondate, lui all'interno, nascosto dietro a un bancone, scaricava la pistola contro alcuni uomini che si trovavano sul marciapiede, decisi a fare irruzione. Sulla soglia c'erano già alcuni corpi senza vita, probabilmente gli uomini che il negoziante aveva ucciso in precedenza, durante il giorno. Mentre osservavo da lontano, uno degli assalitori sfondò le vetrine del negozio adiacente, dove si vendevano scarpe, e poi vi appiccò il fuoco. Non andai ad aiutare il droghiere. L'epoca in cui si poteva pensare di compiere tali azioni era ormai finita. Era il crollo della civiltà. Ognuno poteva soltanto badare a se stesso.